riporto una copertina del disco che ha fatto Fabio Fibra. C'è un cervello aperto con due mani che ti mettono le mani dentro il cervello. Mi stanno sul cazzo i capi, Enrico Papi. La gente sta musica la pompa api. Metti la quarta, la tua ragazza scazza, tu lasciala andare come la barca. Per ottenere qualcosa devi fingere di non volerla. Questa è una perla, e team sperla, oh bella, vorrei parlare, vorrei parlare. I sogni sono tutto, però per realizzarli devi svegliarti. Qualcuno mi dica che tutto questo è normale. Qualcuno mi dica che tutto questo è normale. Qualcuno mi dica che tutto questo è normale. Tutto questo è normale, tutto questo è normale. Lavori una vita, ma tutto questo è normale. Non c'è via d'uscita, ma tutto questo è normale. La gente è impazzita, ma tutto questo è normale. Tutto questo è normale, tutto questo è normale. Conto su di me, se Fabri su Fibra. Conto su di me, Fibra Fabri. Conto su di me, numero uno. Conto su di me, tu mi vorresti fare a pezzi. Caro amico, senti, mi stai sul cazzo. Pensavi fosse un gioco, hai finito nel mio disco, dico il cazzo che mi pare. Tu zitto, muto, fammi creare. Passa il microfono a chi? A Fabri Fibra. Ho 7 giorni su 7. Rassegnati al mio tic-tac, tic-tac, quorum. Venerdì 17, come il mixtape. Alza il volume.